Chi è? Ah, ma sono i lavori. Per forza, se no... Così? C'è uno che bussa la porta così? Ha dei problemi. Basta! Che palle! Asilo. Dai, coraggio, cap, lunedì. Lunedì. No, sono malissimo, lunedì. Lunedì. No, ma drago, lunedì e basta, dai. Senti, ma come mai arrivi tutti i lunedì che crolli di sonno? Perché soffro di insonnia domenicale. Insonnia domenicale. Sì, sì, sì, perché è un tipo di insonnia che ti viene solo la notte tra la domenica e il lunedì. Ma dai, ma solo tu puoi avere le malattie, i disturbi secondo i giorni della settimana, sì, dai. Sì, domenica insonnia, lunedì stanchezza cronica, martedì abulia, mercoledì gastrite, giovedì orticaria, venerdì sto bene. Vabbè, non avevo dubbi su questo. Beh, oggi è lunedì però, quindi stanchezza cronica. Ma scusa, per l'insonnia, no, sì, K, in ogni caso puoi sempre seguire il metodo Estiville. Non hai mai sentito nominare? No, è strano, no. Tutti i genitori sanno che cos'è il metodo Estiville. Io no. È un metodo infallibile per far dormire i neonati, capito? E secondo te funziona anche con uno come me? Chi lo sa, dovresti provare. Come funziona? È riassumibile metodo Estiville. In pochissime parole, riassumibile così. Piangi pure che tanto non cambia niente. Cioè? Piangi pure che te lo scordi che vengo a prenderti in braccio a riempirti di coccole. Sì, ma cosa vuoi? Piangi pure così ti stanchi e poi dormi. Ho capito, ma Dragon, la mia insonnia non è come quella di un bebè. Non è che io mi metto lì a urlare a piangere. Vero, io a letto mi giro, mi rigiro, sì, mi rigiro e non mi addormento. Capito? Il metodo Estoril. Ma cosa cazzo stai dicendo, no, ma Dragon? Adesso, cioè... No, ma guarda che anche adesso nella prestigiosa rivista Pediatrics è molto prestigiosa. Prestigiosissima. Pediatrics, scherzi. Allora, anche su Pediatrics hanno pubblicato un articolo che dà finalmente lo status di metodo scientifico al metodo Estiville, che intanto aveva già venduto 3 milioni di copie del suo libro, quindi chissà quanto gliene frega di questa cosa, però almeno i suoi detrattori ora sono serviti, è scienza quella. Ma quindi Estiville è una persona? Estiville è una persona, uno spagnolo. Okay. E io in tutto questo, scusami, Drago? La tua insonnia domenicale, no? Cosa c'entro io con... cosa? Niente, tu non puoi usare questo metodo, quindi allora conta le pecore. Ti metti lì, tranquillo. Aspetti le tue pecore, eccole. Pecore. Oh. Sono capre queste. Vabbè, ma vanno bene lo stesso, dai. E conti, sono sempre individui. Adesso no? Ci provo, sta zitto. Almeno, barbetta. No? Se parli, come faccio a dormire? Zuate la capra. Ci capre e non si è ancora addormentato. Ah, vedi? Erano 15. E ora, bambini, ricreazione! Ma io non... perché l'inno nazionale? Perché è scritto così dalla legge, bisogna che tutte le scuole insegnino agli alunni l'inno nazionale. Quindi anche tu, bambino Alberto, ti insegnerò io, che insomma... Ma quale? Quello del Fratello d'Italia, bla bla bla. Lì, però attenzione, intanto intoniamoci, tonalità. Cosa vuol dire? E intonati. E toni. Questo è un si bemolle. Ma che mi do un tono? Devi accordarti, canta una nota. Fa una nota qualsiasi. Coerente con questo accordo. Barà. In armonia con questo accordo. Fra fratelli. Però prima di fratelli c'è tutta la parte strumentale, prima, no? Vabbè, strumentale, devo cantare, impararlo a memoria. Papparabapparabapparabapparabappa. Sentiamo bene com'è che devi impararlo bene, eh? Allora, aspetta. Ma io ancora con lì. Vai. Dai, avanti, bambino Alberto. Ascoltami. Adesso si inizia. Allora dai, imparalo bene, perché sennò... Ma c'è la Fratelli d'Italia! No, non c'è, adesso prima è taratatata. Dai. Vai. Dai, allora. Non è ancora partito. Non l'ho ancora imparato bene. Dai, papparapà. Vai. Qui ti devi indovinare. Fallo bene. Qui mi piace. Sciararidoce. Come? E devi farlo meglio. Non mi va bene. Vai. Che poi lo facciamo tutto. Bene, vai. Il tempo, ti sei fuori tempo. Non sei a tempo. Non sei a tempo. Tutti insieme. È finita. E poi c'è tutto il testo stampato, c'è Fratelli d'Italia, c'è destra. Un'altra volta, adesso studia bene. Vabbè, per la prossima volta. E non poi finiva. Cielo! Cappa, secondo te il bambino Alberto è un ikikomori? No, ma niente, lascia perdere l'argomento. No, iki cosa? Ikikomori. Ikikomori. È giapponese ikikomori. Sì. Ikikomori. No, mai sentito. Ma scusa, poi tra l'altro ti sembra che il bambino Alberto sia giapponese? Ma no, ma cosa c'entra? Si può essere ikikomori anche se non sia giapponese, dai. Mi stai invischiando nei tuoi soliti discorsi senza senso e anche Tito se ne è vero, ecco, se ne è accorto. Vabbè, c'è anche un libro sugli ikikomori italiani, l'ha scritto uno psicoterapeuta che si chiama Antonio Piotti e quindi voglio dire, non è che mi sto inventando. Dottor Piotti dovrebbe dare un'occhiata anche a te oltre a scrivere i libri sui maori lì. Ma quali maori? Ikikomori sono i ragazzi che si barricano in casa a giocare ai videogame, non escono più, capito? Vabbè, ma scusa, il bambino Alberto viene sempre all'asilo tutti i giorni, come fai a pensare che sia un ikikomori? È ancora non piccolo, è però ha tutte le caratteristiche per diventarlo. L'età critica è tra i 14 e i 18 anni, quando i ragazzi possono sviluppare la terribile condizione de... sociale acuto. Sembra più una cosa da suora in clausura che una condizione psichica. Non però, è tanto diverso. Ritiro sociale acuto. Solo che gli ikikomori non hanno la fede in Dio, non hanno nemmeno quella scusa lì. Si autorecludono semplicemente perché non sopportano l'ansia di avere a che fare con le altre persone, specie coetanei, capito? Il bambino Alberto sì, non ama i suoi coetanei, a parte Gildo. Vabbè, ma Gildo. Che però è frutto della sua immaginazione. Ecco, vedi allora che anche tu cominci a preoccuparti per il futuro del bambino Alberto, è giusto? Okay. Ma io mi preoccupo, io! Ma povero Alberto, mi dispiacerebbe saperlo nella sua stanzetta con le tapparelle abbassate, istupidito davanti al PC, con un nickname, un'identità fasulla. Magari un avatar tutto diverso da lui, dai, sarebbe bruttissimo. Povero bambino Alberto. Ma perché scusa con le tapparelle abbassate? Perché è così che piace agli ikikomori. Tapparelle abbassate per non sapere mai se fuori è giorno o notte, felpa col cappuccio e cappuccio sulla testa. Ma come, tapparelle abbassate e cappuccio sulla testa? Certo, certo. avessi un figlio così, farei irruzione in camera sua con un idrante da truppa antisommossa. Vabbè, dai. Sì, lo riporterei sulla terra in un lampo. Zac, una smaltita di quelle che se la ricorda tutta la vita. Altro che cappuccio in testa, no, e tapparelle in testa. Sarebbe, tapparelle in testa. Sarebbe il modo migliore per perderlo per sempre. Arrivi con l'idrante, diventerebbe un ikikomori. Perché per un po' d'acqua, una tapparella. No, ma sono cose psicologiche, K. Ma quali idranti? Bisogna usare la psicologia, non arrivare la psicologia lì. Usala tu. Io uso l'idrante o le tapparelle, a seconda. Mancano 32 giorni alla fine del mondo.